Raffaele Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirti una cosa, credo dimmi che lo tutto. Sai, però cosa chi so? È la talpa, giusto? No, dimmelo tu, chi è? È chiaro, Gioia. Beppe ti dice qualcosa, Beppe? Beppe Baresi, chi vuoi che è? È lui? È lui, amore mio, l'allenatore in seconda. È sempre in seconda, non è mai prima. Quando è che mette la prima? È chiaro che la talpetta di Moratti non lo toglierà mai, Beppe. Ma... e tutti lo amano, e anche noi lo amiamo. Ma la talpa di Moratti o della stampa? Di tutti bravo, e due? Lui ha fatto il double face, tutto qua. Va bene, un bacione. Ragazzi, siete meravigliosi, posso dirlo, posso ringraziarvi pubblicamente. Però adesso siamo nelle due posizioni più calde e c'è Luciano che insomma è svalvolato, cioè non ci stava dentro più. Sentiamolo. Luciano, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incantatissimo. Oh, viva la sincerità. Allora, per me intanto ti faccio ridere, la talpa è branca, va bene, sì, c'è un toto talpa, dai. Di pallone non capisce niente, e averne di Oriali e di Beccarossi all'Inter tutta la vita. Bella lì. Vorrei capire una cosa, sono super incantato perché vedo Milan e Juve che giustamente puntano sui giovani italiani, no? Sì. Quando noi avevamo gente come Faraoni, Poli, Livaia, Santon, che dove cazzo sono finiti saprà solo Dio, e ci prendiamo il Pereira, il Jonathan e la Madonna che viene qua dall'Albania e chissà. Vabbè. Società, Luciano, non mi sbroccare. Dov'è la società? Colorito Luciano, no? Il pensiero mi sembra si sia intuito, no? Tra i francesismi. Comunque, non c'è dubbio sul fatto che la medaglia d'oro della settimana tra tutti i nostri convocati vada recapitata a Foggia. Rocco da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta Carlo. Dica Rocco. Sono un tifoso di Totti. Anch'io. Lo so. Allora. Senta, io non sono un tifoso, ma sono cotto proprio completamente, perché lui c'ha le stesse cose che tenevo io quando tenevo 18 anni. Io ho 70 anni. Allora io quando giocavo io era una cosa eccezionale. Io zappavo la terra, mi venivano a prendere dove zappavo la terra e andavo a giocare. E giocava come Totti? Sì, no, ma sta scherzando. Io facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Grande Rocco, peccato. Ti auguro tante belle cose, però anch'io. Io sai dove sento la radio? No. Dentro la macchina, che non voglio essere disturbato da nessuno. Bravo, e ti sento tutti i giorni. Dentro la macchina che nessuno spacchi le scatole. Abbandono tutto, televisione, tutte cose, però tutti i giorni sono alla radio per sentire a te. E continua così. Io ti ringrazio, una delle più belle telefonate che mi possano capitare questa. Io c'era un due fratelli, quando giocava, io ho giocato proprio da bambino, però andava sempre a zappare la terra perché di quei tempi, sono del 40, di quei tempi. Molto più faticoso, Rocco, zappare. Io ci manderei qualcuno di quelli che giocano a pallone invece a zappare la terra almeno per qualche settimana. Poi vediamo se sono stanchi dopo aver giocato due partite alla settimana. Poi vediamo. Rocco, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Rocco da Foggia, questo. Adesso così chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione. Ripeto, io vi ringrazio, vi aspetto lunedì, puntuali a tutti i convocati alle 14. Strade, poi torniamo insieme perché abbiamo avuto un sacco di ospiti in questa settimana di programma e con dichiarazioni che sono estremamente attuali. Tutti convocati Magazine. Come avete potuto sentire, è stata la favola di Cassano, Stramaccioni e la Talpa, che sembra una favola, invece non lo è, però è una storia di sport.

Barzaghi, collega di Mediaset, che noi abbiamo prontamente interpellato, ma abbiamo provato anche a torturarlo, ma fisicamente, ma non ci ha voluto rivelare, è stato molto diplomatico, non ci ha voluto rivelare il nome di questa fantomatica talpa, che dunque resta in sospeso e che dunque ci terrà compagnia insieme all'immancabile sceicco o pseudo sceicco che vuole comprare la Roma. Ebbene, sono i due grandi misteri. Farei sentire quasi la musica di Quark, non ce l'abbiamo, però la farei sentire se ne avessi tempo. Sono i due grandi misteri di questo momento del calcio italiano, per chi il calcio italiano non lo vuole leggere con eccessiva severità e con eccessiva angoscia. Noi non lo vogliamo, vogliamo divertirci. Tutti convocati Magazine. Meravigliosi, vedete, qui basta chiedere e vi danno. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia, sottoscritto Carlo Gento, conta nulla, è solo qui per tirare le fila. Allora, i due grandi temi, i due grandi misteri della settimana, adesso ne parlo con il mio amico Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao. Buon pomeriggio a tutti, ciao, ben ritrovati, ciao Carlo. Allora, i due grandi misteri sono la talpa e lo sceicco, che non è una barzelletta, non è neanche una storiella, ma tu sai a cosa mi riferisco. Certo. Chi è la talpa? Intanto, scusa, io ho una curiosità, ma questa musica di sottofondo, così sfadente, l'avranno mica fatto ascoltare anche ai giocatori dell'Inter prima della partita col Tottenham? No, in compenso, durante la conferenza stampa, come tu ben sai, come si è cominciato a parlare di Cassano, è partita una musica lounge. L'artista Cassano ha improvvisato evidentemente uno swing. Sì, però dovrebbe farne di più, perché visto così da lontano, almeno in televisione, sembra un pochino sovrappeso. Gli consiglio un bel tapirulà, un pochino, insomma. Io e te siamo due atleti straordinari a confronto di Cassano. Comunque, lui gioca nell'Inter, noi no. Forse ci sarà una differenza, da qualche parte ci sarà. Sì, nei soldi che prende di sicuro, guarda. Vuoi sapere della talpa? Sì. Potrebbero saperla anche all'Inter, se no già scovata. La talpa, io ho una mia teoria. Penso che sia stato qualcuno che abbia detto fallo tu, dillo tu, perché non ne possiamo più di Cassano, almeno viene fuori il problema. Mm. Perché tutte queste ricostruzioni, l'amico del procuratore, un procuratore che ha fatto uno sgarbo a un altro, sì, un giocatore che gioca poco, mi convincono poco. Mm. Io credo che sia la famosa crisi di rigetto cassaniana, che in tutte le squadre dove il giocatore è stato si è verificata dopo 5-6 mesi e non ne può più nessuno. Real Madrid, certo. Roma, Sampdoria, Milan, Nazionale è il caso più eclatante. Sono bastati 25 giorni di ritiro per convincere Prandelli a non chiamarlo più. Sì. Quindi un motivo ci deve essere. Insomma. La talpa può essere chiunque, vuol dire. Anche il massaggiatore può essere la talpa. Sì, è la talpa che però abita lì dai tempi di Recoba, dai, lo so, questo lo sappiamo. Forse da prima, una talpa abbastanza anziana. Sì, ma una talpa straordinaria, perché ti ricorderai un altro episodio bellissimo di casa Inter, i famosi termosifoni troppo caldi, sì, che indussero Vieri e Di Biagio ad abbandonare il tiro sabato sera prima di una partita importante. Certo, no? certo, li ricordo bene, li ricordo bene. Beh, ma d'altra parte, insomma, ogni tanto, come ho detto molte volte in settimana, conviene aprire gli archivi di Stato. Tacchinardi ci ha raccontato di quella, ha sdoganato la lite tra Vieri e Lippi, così come quella tra Deschamps e Lippi, che erano segreti di Pulcinella, però sono diventati ufficiali soltanto adesso, no? Quindi gli archivi di Stato ogni tanto vanno aperti. L'altro mistero, lo sceicco della Roma mi fa impazzire. E anche a me, perché quella macchinina che ha è veramente strepitosa, è da sceicco in incognito, però. Ora, sai, qui bisogna stare attenti, perché il terreno è molto minato. Ah. E questo sceicco, i soldi ce l'ha o non ce l'ha? È uno sceicco o non è uno sceicco? Forse lo sceicco lo è, questo, abbiamo appurato questo, la famiglia è nobile. e poi tutto il resto è veramente divertente, è roba da film. Sì. Vediamo la conclusione quale sarà. Io credo che ci sia tanta voglia di sceicco, ecco, anche per questo è stata montata questa storia, perché in Italia non vengono. Stiamo qui a chiederci come mai vanno in Francia, vanno in Inghilterra, perché non sono fessi, Enzo. Esatto. Saranno ricchi ma non scemi, eh? Esattamente, volevo arrivare lì. Allora, tutti a chiedersi, non avendo spiegazioni, io e te ora le daremo le spiegazioni, ma insomma la gente si chiede come mai arriva uno sceicco che è parente di, assomiglia a, ecco, allora arrivano, ecco lo sceicco, poi scopri che ci sono mille interrogativi attorno a questo signore. Speriamo che abbia i soldi, speriamo per la Roma, perché mi pare abbia bisogno di liquidità. Gli sceicchi non vengono perché questo calcio non è remunerativo, l'abbiamo detto altre volte, sono soldi a rischio, e chi, nessuno investe il suo capitale, mette il suo capitale a rischio. Qui non ci sono gli stadi, certo, non ci sono certezze delle regole, il diritto sportivo è quello che è, il pubblico è in calo, non c'è merchandising, non c'è sfruttamento del marketing se non relativo, siamo ancora agli albori. È un calcio che non produce reddito, quindi gli sceicchi non vengono, a parte questo signore. A parte questo signore, che poi scopriremo non più tardi del 14 se la grana ce l'ha o non ce l'ha. Senti Enzo, un altro argomento ovviamente della settimana è quello di un'Europa. Adesso aspettiamo il Milan con grande apprensione, con grande tifo, con grande calore, con grande curiosità, perché insomma io credo che, a parte i legittimi gufi, i legittimissimi gufi, tutti quanti sperano che il Milan faccia fuori il Barcellona, Messi e tutte quelle teste coronate, così diventa davvero la Champions League dei comunisti. Speriamo che Berlusconi non ci ascolta, come ho detto altre volte in questa settimana. Squadre di colletti blu, sebbene di alto livello, il Bayern è vero, ha Müller che sarà una stella, ha giocatori che sono il massimo come operai specializzati, però i veri top player a quel punto rimarrebbero uno e mezzo, facciamo, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, e il mezzo non è Cristiano Ronaldo. Sì, si aprirebbe uno scenario molto interessante per tutte le squadre, per tutte e due le squadre italiane. Anch'io, io non sono fra i gufi, anzi spero vivamente che vadano avanti tutti, persino l'Inter, guarda. Beh, l'Inter la vedo dura, dai, non essere eccessivo, non essere ottimista fuori luogo, l'Inter è fuori. È un'altra categoria, vabbè, so, mettiamoci anche quello. Non si mettiamoci sa mai, invece la straordinaria Lazio di Petkovic, quella sì. Sì, la differenza è fondamentale fra una squadra che ha un impianto di gioco è una squadra che non ce l'ha. Petkovic può fare turnover, può cambiare anche giocatori importanti, resta l'impianto di gioco e va su qualsiasi campo e se la gioca. L'Inter non ha gioco e vai a Tottenham e fai a Londra con il Tottenham e fai queste figure. Quindi bisogna interrogarsi un po' su Strabaccioni, giovane di belle speranze e di carriera forse troppo rapida, ma questo è un altro discorso. Torniamo al Milan. Io sono convinto che il Milan possa fare una partita importante anche a Barcellona, usando la solita arma che ha usato all'andata, cioè l'umiltà. Ci vuole una partita di grande umiltà, senza farsi schiacciare, riuscendo a uscire dall'area in palleggio spesso. Ha dei buoni giocatori che possono farlo, mi viene in mente molto Rio, ma non solo. Quindi vedo una partita chiaramente difficile, però sarà difficile anche per il Barcellona ripartire. Sicuro, sicuro, se può fa per il Milan. Grazie Enzo, ti ringrazio, sì, ti abbraccio e ti aspetto qui a farmi compagnia un giorno o l'altro. Un piacere, buon pomeriggio a tutti, ciao. Grazie, ciao. Ad Enzo Bucchioni. Dunque adesso giusto per rimanere in argomento Champions League, una Champions League alla quale legittimamente, perché in uno scenario che si va dipingendo, la Juventus aspira. Sentiamo che cosa ha detto uno che la Champions League, l'ultima Champions League della Juventus, l'ha vinta, cioè Alessio Tacchinardi. Hanno imparato a sognare, ma è giusto così, perché questa Europa non ha padroni in questo momento, Alessio. Ma non ha padroni, ma sicuramente c'ha squadre, due o tre squadre che sono veramente al top. Penso che il Bayern, il Real, e io sono convinto ancora al Barcellona che possa fare qualcosa di importante. Sono squadre veramente solide, complete, lo stesso Borussia Dortmund è in realtà molto importante. Detto questo, però la Juve non è da meno. Mi pare che comunque ci sia un equilibrio pazzesco. Ieri un colpo di ginocchio e un rimpallo di Lavezzi ha permesso al Paris Saint-Germain di passare. L'altro ieri, come sappiamo, l'espulsione stramba e la magata di Modric, il gol di Cristiano Ronaldo. Insomma, Alessio, se il Milan sbatte fuori Messi, di top player non ne restano poi tanti in giro. Cristiano Ronaldo e forse Ibrahimovic. Vero, vero. Detto questo, penso che è stato un peccato che Manchester sia uscito, perché penso che sia la squadra più solida, più completa, e vedo un Paris Saint-Germain invece, poi magari sarò smentito, una squadra di stelle ma non ancora una squadra. E quindi io penso che, come dici te, ci sarà il top player che può essere Ronaldo, Ibra, ma le altre se la giocano. Se saranno partite spettacolari, perché sono tutte squadre che giocano un gran calcio. Detto questo, anche il Milan da italiano spero che passi, anche perché ha dimostrato di essere in grande salute. Sarà una battaglia, sarà durissima, ma se dovesse passare, attenzione anche al Milan, perché sì, Milan è una squadra che continua a crescere, continua a prendere granelli di autostima importanti, quindi sarà una dei quarti di finale di assoluto spettacolo. Questo era Alessio Tacchinardi, adesso basta calcio, dirà qualche ascoltatore, e lo diciamo anche noi. È il momento di allungare il pallone, perché domani si gioca una Inghilterra-Italia che ci vede di rugby, che ci vede chiaramente sfavoriti, ma nella quale recuperiamo il capitano. Intanto saluto Giacomo Bagnasco. Ciao, buon pomeriggio, Giacomo. Buon pomeriggio. Tutti convocati Magazine. Allora, Giacomo Bagnasco, domani Twickenham, che sembra una montagna inespugnabile, che è forse una montagna inespugnabile per l'Italia, la vittoria sulla Francia, quella della grande gioia, della grande forse illusione, una brutta sconfitta in Scozia e una non bellissima in casa con il Galles. Questo è il cammino della nostra Italia, del rugby nelle Sei Nazioni. Sì, tutto sommato io direi che come bruttezza quella con la Scozia e quella col Galles sono in parità. Certo, è stata bellissima quella contro la Francia, una Francia che poi ha perso anche i due incontri successivi, però non è che sia uscita molto ridimensionata. Ad esempio la Francia ha perso di 10 punti in casa dell'Inghilterra, andando anche in vantaggio, e ad esempio per noi un risultato così in casa dell'Inghilterra ora come ora sarebbe comunque un passo avanti. I bookmaker danno l'Italia a 41, la vittoria dell'Italia è a 41. Io 2 euro ce li butto, ma 2 euro ce li butto, vi invito anche voi a farlo. Su. Anche perché quella dell'Inghilterra vale 1,02, non si vince niente. No, dai, una moneta da 2 euro sull'Italia io a Twickenham ce la butto, non mi importa niente. E fai bene. E intanto c'è da dire che Jacques Brunel ha messo in campo anche un po' un fattore sorpresa, perché rispetto al 15 iniziale contro il Galles ha cambiato addirittura 7 uomini. C'è stato l'annuncio della formazione, c'è De Marche al posto di Lo Cicero, che comunque, anche se entra a partita in corso, batte il record azzurro di presenze arrivando a 102. In seconda linea cambia tutto, con Geldenhuis e Furno che prendono il posto di Pavanello e di Minto. In terza linea rientra ovviamente Parisse, che è reduce da una squalifica, e poi c'è Barbieri al posto di Favaro. Il mediano di apertura torna a essere Luciano Orchera, e quindi Barton rimane fuori anche dalla panchina, e come primo centro viene inserito Garcia e Canale saranno di nuovo i due centri, e esce Benvenuti che va in panchina. L'idea secondo me è quella di puntare abbastanza su una squadra forte, una squadra fisicamente forte, con più centimetri in touche, con più peso nella mischia, una squadra che deve placcare tutto. E addirittura giustamente secondo me Brunel porta in panchina due piloni e due seconde linee, quindi pensa di dover fare dare grande battaglia in mischia, e quindi anche di aver bisogno di tanti ricambi. Senti, può centrare in questa rivoluzione della squadra italiana anche la delusione per le due partite in Scozia in casa col Galles? Ma un pochino sì, guarda. Cioè c'è qualche bocciatura a tuo modo di ma, dire? Guarda, secondo me Brunel quando parla di equilibrio ha un certo equilibrio poi anche personale, anche nell'esprimere le sue valutazioni. Mallet era più diretto e a volte, diciamo la verità, gettava la croce addosso a un giocatore. Lui però fa capire alcune cose, ad esempio ha detto che i centri quando erano Sgarbi e Benvenuti andavano benissimo, anche perché avevano un forte affiatamento. Benvenuti è sembrato in difficoltà nelle ultime due partite, e allora lui cerca di ricreare una coppia di centri affiatati mettendo vicino Canale e Garcia. Sì. Così direi che tutto sommato Barton, che non va neanche in panchina, è un po' una bocciatura, sì. Anche se avendo Tobias Botes che può giocare partendo dai rincalzi sia come mediano d'apertura che come mediano di mischia, Brunel ha scelto probabilmente di avere un giocatore della mischia in più. Poi tra l'altro Orchera aveva giocato un'eccellente partita con la Francia, no? Sì, il problema di Orchera potrebbe essere che con una squadra che riesce ad avanzare e gli fornisce tanti palloni, lui si fa valere e in una prova difensiva potrebbe essere più in difficoltà, però proprio per questo diciamo che gli hanno messo intorno un sacco di omoni, ecco. Sì. Quindi puntiamo a fare battaglia fisica con l'Inghilterra, non si può fare altrimenti, Inghilterra squadra molto fisica, squadra che comunque pure l'Inghilterra cambia moltissimo, in questo caso non per questioni di delusione di risultati avversi, ma magari per far prendere fiato a qualche titolare, speriamo sottovalutando l'Italia. Potrebbe essere così, perché loro sono quasi quasi sicuri oggettivamente, sì, di vincere questo Sei Nazioni, ma vogliono fare il grande slam e vincere tutte le partite, e quindi devono andare a battere il Galles in casa sua sabato prossimo, e non sarà facile. Certo, però, se guardiamo poi chi entra e chi esce, ti cadono un po' le braccia. In particolare ci sono questi due giovani mediani che vengono sostituiti, però ad esempio Farrell, che è un metronomo, un grande calciatore, viene sostituito da un giocatore più fantasista, e quindi per noi potrebbe anche andare peggio. Beh, Giacomo, adesso abbiamo un ospite, cioè abbiamo l'ospite con tutte le maiuscole. Va bene, perché ci alziamo in piedi per il capitano. Noi abbiamo bisogno del capitano a Twickenham. Ciao Sergio Paris. Ciao, grazie. Senti Sergio, una partita meravigliosa, indimenticabile, due brutte, e lo sai anche tu. Adesso sì, andiamo a Twickenham a fare la battaglia. Cosa ci aspettiamo? Giacomo Magnasco prima mi diceva serve grande fisicità, io dico serve il nostro capitano. Beh, grazie, sicuramente ho tanta voglia di giocare questa partita, non è stato sicuramente semplice guardare la partita contro il Galles da spettatore, non da protagonista, ma sì, come hai detto bene te, una partita giocata molto bene contro la Francia, due partite brutte, la partita contro l'Inghilterra che ci aspetta sarà, a mio punto di vista, non solo durissima a livello fisico, ma anche a livello mentale e tattico. Andiamo a giocare a casa della squadra che in questo Sei Nazioni sta dimostrando di essere superiore un po' a tutte le nazioni, quindi per noi è sicuramente un appuntamento molto, molto difficile. Dopo due partite, come hai detto te, giocate non benissimo, è importante, al di là del risultato contro gli inglesi, di fare una grande prestazione, una grande partita, e soprattutto far vedere a tutti un'altra immagine, non quella che abbiamo fatto vedere sia a Edimburgo che a Roma contro il Galles. Sergio, se dobbiamo parlare di squadre deluse quest'anno, però naturalmente il numero uno in classifica va alla Francia, e tu in Francia vivi e giochi. Che cosa è successo a questa squadra che era, insieme all'Inghilterra, a detta di tutti, la favorita del Sei Nazioni, e adesso è a zero punti? Beh, è difficile, le spiegazioni forse sono tante. Per me che ci abito e ci vivo in Francia da ormai 8 anni, conoscendo un po' i francesi, sicuramente come ogni anno puntano all'inizio Sei Nazioni e giocano in Sei Nazioni per vincerlo. Ecco, hanno iniziato sicuramente male contro di noi, per fortuna nostra, e hanno anche perso sia contro il Galles che contro, come si chiama, contro il Galles e la... No, ecco, l'Inghilterra, no, certo. L'Inghilterra, scusa. Purtroppo i francesi che giocano in Francia, io posso dire il campionato francese è un campionato molto molto duro, molto intenso, e penso che a livello fisico hanno pagato tanti di questi giocatori un po' la stanchezza di questo campionato, e non hanno le stesse, come dire, agevolazioni che hanno gli inglesi o magari anche noi italiani, irlandesi o gallesi, che giocano la Celtic League, e quindi prima delle Sei Nazioni, anzi una settimana prima dell'inizio delle Sei Nazioni, siamo già in raduno e quindi abbiamo 2 settimane per preparare la prima partita, e quindi i francesi questo beneficio non ce l'hanno, perché devono giocare tutti, e quindi penso che sono arrivati in questo Sei Nazioni un po' stanchi a livello fisico. Poi se entriamo nell'aspetto tecnico non mi permetterei di parlare del gioco della Francia, però sicuramente è una delusione, perché visto la qualità e i giocatori che hanno, ecco, arrivare alla quarta partita del Sei Nazioni senza neanche una vittoria sicuramente è un Sei Nazioni deludente. Sì. Sergio, un'ultima cosa prima di chiudere: domani a quest'ora siete in campo e state giocando contro l'Inghilterra a Twickenham. Capitano, manda un messaggio agli italiani, fammi questo favore. Beh, sicuramente di sostenerci come l'hanno fatto sempre. Dalla parte nostra c'è tantissima voglia di rifarsi dopo queste due partite non giocate benissimo, quindi niente, di stare sempre dietro a noi abbiamo veramente bisogno del sostegno del nostro pubblico, anche se giochiamo fuori casa cercheremo di uscire dal campo a testa alta e che niente, che tutti possano alla fine della partita essere orgogliosi della squadra che hanno visto in campo. Grande capitano, dai che si va a vincere. Grazie Sergio. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio a Sergio Parisse, capitano degli Azzurri. Grazie a Giacomo Bagnasco. Grazie a Sergio. Grazie a Sergio, nostro uomo rugby. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantani d'autore di questo programma. Beh ragazzi, domani vi lascio a Dai e Vai con Gattuso e Ferentino, 16:30, 19, 22, 23. Tutti convocati lunedì qui su questi schermi. Tutti convocati.